A tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Se c'è un filone fiorito a margine del calcio in questi anni, collaterale, è certamente quello delle scommesse. Fioccano sulle agenzie aggiornamenti di quote in continuazione, calcio nazionale, calcio internazionale, e questi aggiornamenti sono dovuti per l'appunto alla situazione che si evolve. Ora, se parliamo del nostro campionato, mi immagino quanti quattrini avrebbe fruttato una scommessa fatta prima dell'inizio del campionato, fatta a fine agosto, su dopo sei giornate Inter Lazio Udinese in testa, seguite da Atalanta, Napoli, Catania, insomma la lettura della classifica attuale, la colonna di sinistra, come si usa dire, formata da queste squadre, con la Roma staccatissima, con la Juventus nella parte destra invece della classifica, chissà appunto cosa, che quotazione avrebbe avuto. Quindi, prima considerazione, è un campionato diverso dal solito, molto diverso. Tre squadre in testa, ricorda il Corriere dello Sport nelle sue statistiche del lunedì, sempre molto, molto felici, curate da Elio Barraco. Tre squadre in testa dopo sei giornate era successo solo nel 29, quindi di tempo ne è passato. Era il primo anno in cui si giocava a girone unico. Beh, questa suggestione comunque del 29, che credo echeggi anche in altri settori della vita leggermente più importanti oggi, non so dire se in questo caso sia una crisi, anzi direi che non la è, perché semmai è una circostanza che il campionato lo ravviva, ma insomma mi sembra significativa. Non sono più exit poll come insomma mi ero avventurato a dire due o tre settimane fa, questi risultati e queste classifiche, perché insomma adesso dopo sei giornate mi pare che perlomeno si possa parlare di prime o primissime proiezioni rispetto alla stagione, e infatti soprattutto per le squadre insomma più popolari, e direi innanzitutto Roma e Juventus, mi sembra che le proiezioni cominciano a essere davvero abbastanza nere. Ne parliamo insieme come ogni lunedì, l'800240024, sapete che è il numero di riferimento. Rosa al centralino è già pronta ad accogliervi, a ricevervi e a smistarvi sulle varie linee. Noi come sempre facciamo un ripasso vocale e verbale del fine settimana calcistico, e mi pare che proprio Roma e Juventus siano le squadre che hanno catalizzato l'attenzione maggiore da un punto di vista negativo. Poi sentiremo invece, a cominciare da Ballardini, da Gasperini e da altri, da Giampaolo, sentiremo invece le voci di chi in questo fine settimana si è divertito molto, ma molto di più. Cominciamo da Spalletti. Noi non siamo stati male in campo nel primo tempo, fino a che poi non è passato in vantaggio il Siena. Nel secondo tempo abbiamo provato, eravamo in partita, la partita viva, e si sa quando poi si è al di sotto delle nostre possibilità individuali per troppi motivi, come ci sono capitati in questo momento, non è che tu possa prendere dei vantaggi troppo visibili, bisogna aspettare il momento giusto, saperlo cogliere e saperci poi tirar fuori qualcosa in funzione del risultato. E poi c'è stata questa doppia espulsione che ci ha creato difficoltà, e nonostante poi fossimo due di meno, la squadra è stata bene in campo e ci ha anche provato e ha creato anche delle insidie. Ma ci sono a volte le valutazioni che si fanno su un fallo, dentro la fatica poi della partita, e la reazione può essere a volte questa quando le cose non ti vanno bene. Perché? Perché ci tieni, perché sei arrabbiato per ciò che non ti è riuscito a fare in campo, e non dipende solo dal nervosismo, dipende anche da quello che è la mancanza di risultati, la mancanza di tranquillità, ecco, e allora ogni tanto siamo soggetti a fare qualche comportamento scriteriato. Stridor di unghie sui vetri, direi, no? Nelle frasi di Spalletti, perché insomma, io credo che nemmeno più lui sappia dire bene che cosa sta accadendo alla Roma, e credo che quell'espressione ieri, con le mani sul viso, alla follia di Mexès, qualcosa di molto significativo rappresentino. I primi messaggi, questa classifica, domanda Massimo da Verbania, fino a che punto è figlio di un calendario nuovo casuale? Io credo in buona parte, Massimo, perché sino a ieri il calendario veniva compilato con ben altri criteri, cioè le teste di serie, cioè un avvio morbido per le grandi, perlomeno in linea di massima, con qualche eccezione, perché lo scorso anno per esempio la Roma ebbe un avvio tremendo, ben più duro di questo. E, come difficoltà di calendario, però certamente il fatto di aver mischiato le carte e di aver fatto in maniera con il sorteggio che anche squadre di seconda fascia e in qualche caso di terza avessero un avvio morbido e non sbattessero subito contro le più forti, indubbiamente ha contribuito a questo equilibrio. Mentre Antonio da Bergamo dice: almeno lei me ne spende due parole per Derneri e l'Atalanta, che con l'età media tra le più basse sta facendo bene a due anni, ma sono parole spese volentieri, perché per l'Atalanta, per la politica di questa società, per la continuità che è riuscita a trovare nonostante la tragedia che ha colpito la famiglia Ruggeri e che ha costretto il Ruggeri Junior, insomma, a subentrare al padre. Questo da un punto di vista societario, da un punto di vista che spiega poi anche molte scelte, quella storica di puntare il più possibile sul vivaio e sui giovani, ma poi anche di insistere con un allenatore come Derneri, che indubbiamente in provincia dà nettamente il meglio di sé e sta facendo di questa Atalanta il primo Chievo, mi sembra, dal punto di vista proprio del divertimento, della ricerca dello spettacolo, del calcio, insomma, di un calcio divertente. Tocca a Ranieri e quindi si cambia di nuovo registro. Certo che la sconfitta in casa colpisce, ci ferisce, questo è poco ma sicuro. Venivamo da tre pareggi, volevamo la vittoria e invece è stata una partita in salita, i ragazzi hanno fatto tutto quello che era nelle loro possibilità e abbiamo ripreso la partita, e nell'unica occasione del Palermo nel secondo tempo ci ha castigati. Purtroppo questo è il calcio ed è un momento difficile, è inutile adesso negarlo, però abbiamo la forza, la volontà di reagire. Ma io adesso non voglio accampare a scuse, certo giocare in 10 non è facile, però oserei dire che il secondo tempo 10 contro 11 abbiamo cercato più noi di fare qualcosa che il Palermo è stato bravo in un contropiede a trovarci impreparati. Beh, insomma, anche qui stridor di unghie sui vetri, perché che il Palermo ha fatto qualche contropiede in più di quello che Ranieri ricorda, e comunque sin dall'avvio ha dimostrato di tenere il campo in maniera più equilibrata ieri rispetto alla Juventus. Poi non dimenticherei comunque che qualche attenuante c'è, perché quando devi rinunciare in partenza alla coppia centrale difensiva, ti si fa male un altro dei due centrali, che nella fattispecie era Melberg, non puoi non essere vulnerabile sulle linee arretrate, e certo a quel punto si presupporrebbe che un centrocampo muscolare, che è stato in particolare Ranieri, almeno così si dice a volere, se la cavasse un po' meglio a proteggere, a filtrare il gioco degli avversari. Invece ieri così non è stato, perché Paulsen da un paio di partite almeno è in netta flessione, non sembra più il giocatore, non sembra più l'acquisto azzeccatissimo delle prime partite. Sissoko è molto più dinamico, però bisogna muoversi con un altro equilibrio in campo e non a quella maniera che così sgraziata, scomposta, alla lunga ti porta a essere troppo falloso come ieri è accaduto. A tutto questo poi si aggiunge un problema che credo proprio che fosse l'ultimo in preventivo da parte della Juventus, società, squadra, ma anche tifoseria, e cioè che un attacco che era già forte l'anno scorso e che segnava, era il miglior attacco del campionato e segnava con una disinvoltura incredibile, quest'anno che è stato oggettivamente rafforzato perché sono arrivati due giocatori come Amauri e come Giovinco, invece segni col contagocce e abbia totalizzato la miseria di 5 gol in 6 partite. Sentiamo sempre dai microfoni di Sky di ieri, sentiamo come, come Del Piero prova a raccontare la Juve vista dal di dentro. Abbiamo delle difficoltà che si sono ripetute nelle ultime gare. Oggi ce ne sono state altre di diversa natura, quindi alla fine cercando di vedere con un po' di ottimismo il futuro, ben venga questa sosta, dove assolutamente però in questa sosta dobbiamo lavorare, dobbiamo impegnarci, dobbiamo dare di più, tutti quanti, non solo singoli giocatori o altri, dobbiamo riprendere in mano la situazione perché tante cose non hanno funzionato, quindi dobbiamo migliorare. In Spagna è uguale, scrive Alessandro a Treviso, nel senso che anche lì le grandi stanno stentando, eccetera. Cosa c'era a stupirsi? Beh, insomma, intanto un po' c'era a stupirsi, perché in Spagna davanti ci sono il Villarreal, che è un motivo di stupore, ma relativo. Il Villarreal in questi anni è stato abbastanza stabilmente nell'alta classifica. Diciamo che il Villarreal potrebbe essere l'Udinese, per capirci, che infatti non è la sorpresa assoluta, direi, di questo avvio, semmai è una conferma in positivo rispetto alle ultime stagioni. Poi c'è il Valencia, che è stata una grande di questi ultimi anni, ma poi ci sono subito Real e Barcellona, magari un po' altalenanti, ma insomma il Barcellona dell'altra sera contro l'Atletico Madrid, insomma, ha giocato una partita stratosferica, tra le migliori che si siano viste in questi anni in assoluto in Europa, quindi insomma, mi pare che qualcosa da stupirci, nel senso di qualche differenza ci sia invece. Udinese, quindi una capolista entro certi limiti, ma non in assoluto, secondo me in attesa, almeno per il momento. Sentiamo il suo allenatore, Marino. Il primo tempo soprattutto ha pesato un po' la stanchezza, stranamente, dove pensavo potesse essere il contrario, però parlando con i ragazzi all'inizio della partita sentivano un po' le gambe pesanti, allora facevano fatica, man mano che passava il tempo cominciavano a sciogliersi, però purtroppo ne è passato un po', perché il primo tempo il Torino ha giocato molto meglio rispetto all'Udinese. Abbiamo avuto la fortuna di sfruttare un'occasione e lì la strada si è un po' spianata, perché non dovevamo fare la partita. Chiaramente quando fai la partita devi essere un po' più preciso e gli altri si possono chiudere, quindi nel secondo tempo credo che abbiamo fatto una grande partita. Quando si vince va sempre bene, il morale è alto, quindi il fatto di essere primi non cambia nulla a quello che sono i nostri programmi, i nostri progetti, quindi si lavora sempre meglio. Una notizia d'agenzia che arriva in questo momento riferisce in un'intervista a Cobolli Gigli, presidente della Juventus, che nega che la sfida di Champions con Real Madrid sarà decisiva per Ranieri. Sarà decisiva, sì, ha detto Cobolli Gigli, ma solo per proseguire il cammino al meglio in Coppa. Primo intervallo di oggi, strade e autostrade. No, niente strade e autostrade, perché non è ancora pronto il notiziario. Allora, il primo ascoltatore di oggi, facciamo così, Renato da Roma, buongiorno. Buongiorno, sono Renato Pascariello e viva lo sport. Un appello alle società in Italia e internazionali: finanzino con i loro guadagni la ricerca scientifica, l'arte, io sono un artista, altrimenti credo che ci saranno tanti problemi sulla terra, e allora questa è una cosa assolutamente necessaria. Queste società credo che guadagnino un po' di soldini, bene, dedichino buona parte dei loro guadagni alla ricerca scientifica, alla cultura, certo, alla formazione dei giovani, alla pace, e credo che tanti problemi si potranno, diciamo, risolvere nell'interesse generale. Questo nell'interesse è uno stupendo messaggio, vagamente utopico. Sono un po' di appassionati e sostenitori del Palermo che se la prendono e dicono di essersela presa, soprattutto ieri, per il fatto che quello che è successo a Torino è stato rubricato più alla voce sconfitta Juventus che non alla vittoria a Palermo. È inutile che ve la prendiate, è assolutamente normale che sia così. Se si gioca Juventus-Palermo e vince la Juventus e perde Palermo è regolare, se va al contrario tanto regolare non è. Detto questo, una conferma viene dal fatto che, ripeto, riprendo le statistiche del Corriere dello Sport, questa vittoria del Palermo a Torino tardava da 46 anni, 18 febbraio 62, 4-2 per il Palermo contro la Juve di Charles e Sivori. Andando avanti invece e attualizzandolo, è indubbio che ci sono i meriti del Palermo e soprattutto la mano di Ballardini. Pensate che una statistica ovviamente ovviamente un po' corta per poter essere presa come Vangelo, però comunque una statistica dice che mentre la media di Ballardini alla guida del Palermo è di 2,40 punti sui 3 disponibili a partita fino ad ora, perché ha giocato 5 partite, la prima c'era ancora con l'Antuono, e in 5 partite 4 le ha vinte e 1 l'ha persa, media per l'appunto 2,40, questa statistica ricorda, data oggi dall'ANSA, ricorda che la vera impresa, perlomeno dal mio punto di vista, di Ballardini è la media di 1,52 punti a partita l'anno scorso a Cagliari, quando dovremmo ricordarci in che condizioni prese quella squadra, che aveva una media punti che era molto vicina allo zero. E sommando questi due dati si arriva al fatto che Ballardini ha quasi la media di Roberto Mancini, che però in questi anni, anziché Cagliari e Palermo, ha allenato l'Inter. Tocca a Diego da Verona, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini. Io volevo parlare della partita Chievo-Fiorentina, soprattutto di un episodio che è successo da cui è scaturito il gol, ma il mio intervento era soprattutto di capire il regolamento arbitrario riguardo al... Arbitrario non è male. Il regolamento arbitrario, sì? Su? Scusi, ho sbagliato, un po' emozionato. E riguardando la punizione, ecco, perché è stata battuta quando l'arbitro stava parlando. I giocatori del Chievo erano 5 o 6 intorno all'arbitro, e c'è stato un giocatore della Fiorentina che ha preso il pallone e l'ha spostato sul lato destro di circa 4-5 metri più in là da dove doveva essere battuta la punizione, e l'ha battuta immediatamente e dopo hanno segnato. Ecco, volevo sapere se era regolare. Beh, si è spostato di molto, come dice lei, ma non credo, però non mi risulta il punto di battuta. Allora questo non è molto regolare. Se invece ha battuto, come ha battuto, una punizione a sorpresa perché non era stata richiesta la distanza della barriera, ha segnato un gol regolarissimo, come in effetti è stato valutato da tutti. Questi colpi di furbizia fanno parte del calcio, in campionato, in coppa, insomma in Spagna l'altra sera Messi ha segnato direttamente da fuori area una punizione con un altro colpo d'astuzia, così sono sempre successi. In questi casi è furbo chi fa gol ed è pollo chi lo subisce. Ieri il Chievo è stato indubbiamente pollo. Se questo però è il modo in cui i tifosi del Chievo, che ricordo molto maturi sempre, accolgono la sconfitta di ieri, è un segnale negativo in più per il povero Chievo, perché mi sembra che sia invece quest'anno una squadra che non funziona, e se devo riferirmi a ieri è anche una squadra che si abbandona un po' troppo all'agonismo, perché quell'espulsione era assolutamente sacrosanta per un fallaccio davvero, davvero brutto, ma ce n'era almeno anche un'altra, quindi non è questo il modo di affrontare le grandi squadre. In ogni caso il Chievo ne aveva sempre adottato uno completamente diverso da questo. Padova, Elio, buongiorno. Salve a tutti. Io sono tifoso juventino. Pronto? Certo. Ecco, vi ricordo che ieri non era la vera Juventus, perché alla Juventus mancavano 5 giocatori titolari. Vorrei vedere Inter, Milan e Palermo con 5 giocatori non titolari, insomma, mi sembra un po' dura. Cosa ne dite? Dico che l'ho appena finito di dire, che due giocatori, insomma, altre squadre riescono a far fronte quando, e la stessa Juventus quando è in salute riesce a far fronte a quel numero di assenze, non dico agevolmente ma quasi. Ho appena ricordato che mancava la coppia centrale e che un altro centrale si è fatto male nel corso della partita, e questo è oggettivo. È anche vero però che un paio di assenze di titolari, cioè Nedved e Camoranesi, erano libere scelte del tecnico, poi giusto o sbagliate che fossero, ma queste erano assenze cercate, assenze scelte, ripeto. Mancava Trezeguet, ma Trezeguet mancherà per mesi, e non è nemmeno detto che non sarebbe mancato comunque, visto l'acquisto di Amauri. Quindi insomma, da una parte quello che dice lei è abbastanza vero, dall'altra la considererei un attenuante quella dell'assenza, soprattutto della coppia centrale difensiva, ma non spiegherei soltanto così l'accaduto, sennò di nuovo riduttivo. Da Grosseto, Stefano. pomeriggio, dottor Garanzini, grazie ovviamente per l'intervento. Volevo un po' collegarmi a quanto detto dall'ascoltatore precedente in merito sempre alla Juventus. D'accordo, le attenuanti e tutto, però dico una cosa, il mister Ranieri dovrebbe conoscere un po' anche le condizioni della squadra. Se la Juventus, come abbiamo visto ieri, in campo cammina, fra l'altro ha dei giocatori che non sono in condizione e tutto quanto, perché si è messo in testa di voler vincere la partita quando poteva benissimo anche tenere a questo punto il risultato? Ovviamente è una considerazione mia, ognuno ha il suo modo, il suo diritto ovviamente di pensare al proprio modo, però insomma mi sembra che nella sconfitta di ieri c'è anche lo zampino di mister Ranieri. In negativo ovviamente. Mm-hmm. La ringrazio. Sì. Grazie a lei. Io credo sì che la di Ranieri sia stata quella di levare a un certo punto, dunque un centrocampista di quelli di forza che piacciono a lui, gliel'aveva eliminato l'arbitro, giustamente. L'altro ha deciso lui di sostituirlo quando mancavano più o meno la ventina di minuti alla fine e di rimpiazzarlo con Camoranesi. Perché, dice lei, visto che l'inferiorità, ed è una domanda che si sono fatti in tanti, perché visto che la Juve era in discreta soggezione ma soprattutto in inferiorità numerica, questo azzardo? Non so, la domanda va fatta a Ranieri. Io provo a interpretare questo e non lo trovo poi così sbagliato. Intanto la Juventus stava avendo in quella fase un sussulto d'orgoglio, mi sembra di ricordare, che insomma, l'ha portata a creare qualcosina. L'idea che qualcosina in più la creasse uno come Camoranesi anziché Paulsen, tutto sommato non era sbagliata. Aggiungo, lei ne fa un problema di realismo. Il massimo del realismo possibile oggi è calcolare che quando stai pareggiando una partita, se la perdi, perdi un punto, ma se la vinci ne guadagni due rispetto al punto che vale il pareggio. E quindi io quella scelta in particolare di Ranieri a quel punto non la trovo così ingiustificata. Da Roma, Angelo, buongiorno. Buongiorno Gigi. Buongiorno Gigi, complimenti per la trasmissione. Senta, io la chiamavo in merito al discorso della Roma. Ma è mai possibile che giocatori di esperienza che giocano, specialmente Panucci, in Serie A da svariati anni, cascano in falli così ai veniali, sapendo, pur sapendo anche che magari una partita del genere sull'1-0 ci sono ancora molti minuti per magari scaturire un pareggio, cascare a fare dei falli del genere, pur sapendo che fra 15 giorni poi c'è una partita importantissima contro l'Inter, sapendo che se magari la doppia ammunizione potrebbe avere delle mancanze, già visto che la Roma da quest'anno non ha mai avuto la formazione tipo e non si vede il gioco stellare fino adesso che c'è stato l'altro anno. Anche col Bordeaux diciamo che la vittoria è stata scaturita da due colpi di fortuna, perché Batista non ha mai preso una punizione da quando giocava nel Real Madrid, e più il gol di Vucinic, scusi se non so se l'abbia visto, ma è stato uno grande scandalo il portiere, che quella è una palla grandissima che un portiere credo anche di, ma insomma entro certi limiti. Il gol di Vucinic mi sembrava invece un gol che ci può stare. Come il portiere è uscito male, ma è uscito male che la traiettoria era attesa, Vucinic ci ha anticipato bene eccetera, su Batista, insomma il discorso della Roma è complesso, lo faccio magari dopo, perché credo che, a proposito di, vi ricordo che tre squadre in testa in Serie A soltanto nel 29, vi ricordo che c'è qualche altra suggestione nel 29, sì che... Tempo di sport. Torniamo in onda e torniamo immediatamente in vostra compagnia. Da Roma, Fabrizio, buongiorno. Buongiorno a lei. Dica. Senta, io facevo una considerazione e quindi chiedo il suo parere su questa mia considerazione, appunto. Non crede che la Lazio, vista sabato, entri in difficoltà con le squadre che si arroccano perché manca di un attaccante, diciamo, imponente, alto, che possa raccogliere e sfruttare situazioni diverse dal... diciamo dalla velocità che normalmente ha? Sì, manca un attaccante torre, ma non credo che sia questo un problema. Io credo che manchi invece, o sia mancata sabato, la personalità, la convinzione, ma neanche, insomma, sia mancato il fatto che questa era una squadra che certamente non pensava di trovarsi in testa dopo 5 giornate. Il peso di trovarcisi è gravato, insomma, sulle teste e più ancora che sui muscoli dei giocatori. Ma è una crisi di crescita, Il fatto poi di esserle riuscite comunque a raddrizzarla è un segnale positivo. Io credo che la Lazio sia destinata abbastanza a durare, perché una squadra che prende una sventola come quella di San Siro, quando proprio sembrava che fosse in chissà che rampa di lancio, e la domenica dopo da 3 gol alla Fiorentina, che potevano essere 6 o 7, secondo me è una squadra che di qualità ne ha tante, anche morali. E quindi, come si era ripresa quella volta, secondo me si riprende anche questa. Nicola da Torino, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Buongiorno signor Garanzini, piacere parlare con lei. Sì, grazie. E io volevo un suo parere da un vecchio tifoso granata, come è stato lei in gioventù, sulla, chiamiamola ormai, crisi che dura da 3 anni del Torino. Diciamo che prima le scusanti erano i vari cambi di allenatori, adesso dopo 3 anni credo che si possa parlare ormai di crisi totale del progetto Cairo. Volevo un suo parere in proposito e la ringrazio per la cortesia come sempre della sua risposta. Grazie. Grazie. Beh, insomma, lei la fa corta la crisi, 3 anni, mi sembra che siano 30 almeno gli anni, o pochi meno, insomma, che il Torino ha una dimensione che, insomma, diversa e più modesta e per lunghi anni molto più avvilente di quella di un tempo. Stenta a decollare un progetto, perché è un progetto che non ha queste grandi risorse, evidentemente. Oggi ci vogliono altri investimenti per far decollare, per l'appunto, un progetto nel giro di 2-3 anni. Infatti vediamo che società che hanno investito in maniera diversa, in maniera più cospicua e più massiccia, nel frattempo sono riuscite a risorgere in maniera ben diversa. Sto pensando al Napoli, sto pensando alla Fiorentina. Quindi questo non è necessariamente un segnale di fallimento, è semplicemente così la constatazione che non basta per tornare oltre un certo livello, che non basta quel genere di investimento. Ma questo poteva permettersi la gestione attuale, e evidentemente sono discorsi poi che lasciano un po' tempo che trovano, perché se non c'erano investitori più brillanti, evidentemente meno male che il Torino ha trovato questo per salvarlo poi da dopo il fallimento, prima lasciandolo fallire, ma questo è tutto un altro discorso. Adesso andiamo al centro-sud, cominciando da Palermo. Paolo, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini, sì. Complimenti intanto sempre per la trasmissione, un piacere ascoltarlo. Una piccola osservazione, due partite fa di campionato, adesso non mi ricordo il nome del giocatore, si è imperniato una trasmissione intera sul fatto che un giocatore abbia interrotto l'azione non infliggendo un gol al Palermo e che l'arbitro non sia intervenuto in tal senso. Ieri è stato dato un rigore alla Juventus, quasi a termine partita, inesistente. Come mai non abbiamo preso atto di questo? La ringrazio e attendo la sua risposta. Non l'avrà, Paolo, perché non ho capito assolutamente nulla, e soprattutto non ho capito quale possa essere l'analogia o il parallelo tra un bel gesto di fair play e una valutazione arbitrale. Non, sinceramente mi sfugge. Proviamo ad andare ancora più a sud, in provincia di Trapani, da Nicolò. Buongiorno. Buongiorno, salve. Dica. Dottor Garanzini, senta, sì. Una piccola premessa. Sì. Come mai, diciamo, il suo pensiero non viene ospitato in altri salotti? Questa è una cosa che mi rammarica. Ora, tornando indietro alla settimana scorsa, quando lei parlò della vicenda dei tifosi spagnoli che sono stati puniti, diciamo, severamente, sì, sia come pene pecuniarie che come divieto di andare allo stadio, in parallelo a quelli italiani che invece praticamente non hanno subito quasi nulla in confronto. Io non mi stupisco più di tanto, perché collegandomi ad argomenti extracalcistici, se si tiene conto che ci sono giornali famosissimi tipo Repubblica la settimana scorsa, che per un pugno ricevuto da un ragazzo a Verona, sì, a Parma, anzi, mi scusi, e che è un gesto assolutamente da chiarire, verificare quali sono, ha impegnato 3 pagine, le prime 3 pagine del suo quotidiano, mentre pochi giorni prima, quando sono morti i 2 agenti a Napoli che inseguivano un ragazzo che era sfuggito all'Alte, e sono morti, più un altro agente di polizia a Genova ucciso a coltellate da un pazzo. E quindi non se ne è parlato quasi niente, tranne la cronaca, diciamo, il trafiletto per caso. Non mi stupisco del fatto che ci sia questa differenza di giudizio fra la punizione ai tifosi italiani e quelli spagnoli che danno in Nicolò, Spagna. Nicolò, la ringrazio. Devo sapere cosa ne pensava lei. Che mi va già troppo largo questo salotto qua, in più di un caso. Domenico dalla provincia di Bari, buongiorno. Buongiorno, senti. Dica. Volevo dire, riguardo alla Juventus, mi sembra che Ranieri abbia visto un'altra partita, in quanto lui dovrebbe citare Piaculpa, perché non può giocare a centrocampo solo con Sissoko e l'altro, adesso non mi viene in mente, ha rinunciato a Camoranesi e che lì dicendo che era infortunato, poi è stato convocato da Lippi. Grazie, l'ascolto per radio. Ma non credo avesse detto che era infortunato, perché poi l'ha schierato lui stesso, quindi questo mi sentirei di escluderlo. Ha fatto delle scelte. Io credo che il problema principale di Ranieri di oggi sia quello che si trova a metà di un guado tra dei vecchi che non lo convincono, vecchi per modo di dire, che non lo convincono in più fino in fondo, perlomeno sul fatto di poter reggere tanti impegni ravvicinati, e dei giovani che molto promettono ma che fatalmente sono giovani, sicché fanno... Prendiamo il più bravo di tutti, che è Giovinco, fa una prima partita magnifica, una seconda buona, una terza un po' così, e poi in una partita davvero difficile come ieri si smarrisce anche lui. Perché? Perché è giovane e non è facile trovare la sintesi ideale. Il ripasso di storia è preceduto da una notiziola dell'ANSA, notiziola si fa per dire, che è arrivata da poco e che insomma, è evocata in un certo senso da un ascoltatore precedente. Un treno delle Ferrovie dello Stato è stato danneggiato da un gruppo di tifosi della Roma di rientro ieri sera da Siena dopo la partita. Il treno, che è un minuetto di nuova generazione, è partito da Siena alle 18.04, diretto a Chiusi. A attendere i tifosi c'era una polizia, alcuni sono stati fermati. Secondo le stime di Trenitalia, il convoglio ha riportato danni per circa 15.000 euro, perché i tifosi in particolare hanno distrutto vetri, parte della tappezzeria, una telecamera, circuito interno e l'impianto sonoro. Dunque, se ad attenderli a Chiusi c'era la polizia, è ragionevole pensare che questi tifosi siano stati identificati, e quindi vedremo prossimamente che soglia di tolleranza tra 0 e 100 verrà applicata anche nei confronti di questi ultra. Il ripasso di storia, vi dicevo, Nicola Filippone. Sembra ieri. 6 ottobre 1929. Inizia il 30° campionato di calcio di Serie A, il primo con la formula a girone unico. L'Italia si uniforma così ai principali paesi europei, in cui il girone unico costituiva già una consuetudine. Nel primo torneo senza suddivisioni per area geografica, l'unica squadra meridionale è il Napoli. La regione più rappresentata è invece la Lombardia, con 5 club: Ambrosiana Inter, Milan, Brescia, Pro Patria e Cremonese. Lo scudetto sarà vinto dall'Ambrosiana, trascinata dal capocannoniere Meazza, autore di 31 reti. L'assista milanese scrive: cosa si sbilanci, la prego, cosa c'è o chi c'è dietro l'attacco di Tutto Sport a Ranieri? C'è che il mercato è chiuso fino a gennaio e in qualche maniera bisogna vendere cercando di colpire la pancia, e quando non ci sono per l'appunto mezze punte o attaccanti da sbattere in vetrina ad ogni costo, se non molto proiettati nel futuro, lo sport preferito evidentemente è quello di attaccare l'allenatore, cacciarlo, cioè cercare, insomma, muoversi, battersi per cacciarlo, e ovviamente proporre alternative di mercato allenatori. È questo che fa vendere oggi, almeno così dicono. Da Napoli, Luigi, buongiorno. Buongiorno dottore. Senta, la seguo sempre con molta attenzione, il suo equilibrio è oramai rinnovato. C'erano due rigori per il Napoli ieri, è lì che vuole arrivare. Scommettiamo? Non ho capito? C'erano due rigori per il Napoli ieri di cui non ho ancora parlato. Scommettiamo? Ecco, prima quello. Ha vinto la scommessa. L'altra scommessa che non vorrei vincere io è quella del doppio pesismo, che sicuramente ci sarà in Italia. Quello dei tifosi Trenitalia, che ha comunicato dopo tante ore i danni subiti, mentre a Napoli erano due o tre ore. Sì, erano danni... Scusi, 500.000 euro contro 15, se la vuol mettere su quel piano. No, no, No, però sono i tempi da in tre ore sono stati ci sono voluto solo tre ore per fare una perizia da 500.000 euro. Per forza, Luigi, avevano sequestrato un treno in quel caso, da cui erano stati fatti scendere, sequestrato con la benevolenza delle autorità, intendiamo. C'è stato intanto un servizio di Radio Solo 20, di Rai News 24 che pare. No, adesso no, io non voglio giustificare nessuno, Luigi, vorrei soltanto riassumere. Non allora, abbassare la guardia. Il problema, ecco. Leggenda. Luigi da Napoli direttamente nella leggenda. Grazie. Da Catania, Renato, buongiorno. Buongiorno Gigi, sono Renato, chiamo da Catania. Sì. Abbiamo avuto qualche contatto mail riguardo il vino, non so se si ricorda. No, però se riguardava il vino era certamente un argomento più divertente di questi. Gli ho consigliato un buon vino rosso benissimo, catanese, siciliano. Comunque io desideravo avere il suo parere sul momento del Catania, che francamente disastroso. No, perché è disastroso? No, appunto, cosa vuole che ne dica? Che è disastroso. No, e poi francamente più che altro volevo tessere l'elogio al nostro ex tecnico, perché francamente oggi se devo vedere una partita per vedere bel calcio devo vedere una partita dell'Udinese di Marino. Questo è assai più originale di quello che pensavo, e quindi mi spiace di averti questa battutaccia di prima, però è vero, Marino è un allenatore che ama il buon calcio, l'aveva dimostrato entro certi limiti per quel che si poteva a Catania, lo sta dimostrando a maggior ragione a Udine, non può lamentarsi il Catania di oggi di come sta giocando, non può lamentarsi nemmeno di come gli è girata ieri, perché ieri se perdeva diciamo che era regolare, perché la Regina strameritava di vincere e perlomeno nella prima parte, ma insomma tutto sta andando, credo, al di sopra delle previsioni. Da Brescia ha chiamato Marco, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Mi collego all'ascoltatore di prima che parlava del Catania, sono d'accordo su quello che ha detto. Io a lei chiedevo un parere velocissimo. Stovini, che secondo me considero uno dei migliori difensori in questo momento centrale in Italia e non viene mai convocato in nazionale, quindi volevo un suo parere, diciamo, dopo l'ascolto per radio. La seconda cosa, mi dice in questo calcio di miliardi di sponsor tecnici dello stato pietoso di tutti i campi italiani della Serie A, soprattutto vabbè, Milano, ma non è una novità, e Torino, dove gioca pessimo Juventus, anche Torino, che cioè, mi sembra che il miglior mantorboso di tutta la Serie A italiana è solo a Catania. L'ascolto per radio, la ringrazio, buon lavoro. Esagero umane si dice in Piemonte, ci sono campi eccellenti altrove, mi pare che Firenze e Bologna siano, perlomeno lo sono sempre stati tradizionalmente, poi insomma, adesso in questo precisissimo momento non ce li ho presenti, ma credo che siano ancora più che all'altezza. Stovini è un buon difensore, indubbiamente, ma è uno dei tanti che potrebbero essere convocati, non è nemmeno più giovanissimo e quindi questa è la ragione probabilmente per cui Lippi fa altre scelte. Pensa che il Napoli, non avendo più l'impegno di UEFA, possa aspirare a un posto Champions? Domanda Raffaele, lo penso assolutamente, anzi sono abbastanza convinto che l'eliminazione dal Benfica della scorsa settimana sia stato, per quanto amara, sia stata a gioco lungo un tocca sana, e credo anche che del Napoli, per come ha giocato ieri a Genova e per come tutto gli è girato storto, fino a una sconfitta abbastanza incredibile, credo che del Napoli sentiremo ancora parlare, esattamente come della Lazio. Michele, provincia di Novara, buongiorno. Buongiorno a lei. So che la mia affermazione può sembrare abbastanza banale e scontata, secondo me il campionato a maggior ragione è ancora tutto da decifrare. Analizzo anche, per esempio, non so, il primato dell'Inter secondo me non è poi così veritiero, perché comunque si è visto che la prima squadra che l'ha messa in difficoltà, cioè il Milan, è riuscita a vincere per 1-0 e l'Inter non è riuscito quasi neanche ad avvicinarsi alla porta, perché il Milan correva di più. Poi è vero che il Milan la partita dopo è andata a pareggiare 0-0 contro l'ultima in classifica, che tra l'altro non merita di essere in quel posto in classifica. E quindi lei dice che i segnali sono ancora molto contraddittori per il momento. Secondo me sì, cioè nel senso i verdetti vengono ribaltati quasi da una settimana all'altra, salvo poi le belle sorprese di Lazio, che comunque anche in casa gli è mancato probabilmente il piglio della grande, cioè vincere contro una squadra nettamente inferiore. Certo Michele, certo, era quello che si diceva prima. Tutto cioè probabilmente, non so, ecco, questa sosta tra l'altro probabilmente aiuterà anche, non so, Juve, Roma, così a riordinare un po' le idee, forse in questo caso poi si vedranno altri valori. Juve posso crederci, Roma faccio molta più fatica a crederlo, perché io credo che per riordinare le idee alla Roma ci vorrebbe che guarisse Totti innanzitutto, e mi sembra un po' duro, un po' lontana. Sul piano nervoso mi sembra ci sia dei cedimenti. Se continua a giocare Riise esterno sinistro, vuol dire veramente che, a parte Tonetto infortunato, ma vuol dire che non hanno un ragazzino battezzato in primavera, perché sennò giocherebbe un altro al posto di questo palo della luce patetico addirittura. Quindi c'è tempo ancora per Mauro da Brescia? Velocemente sì. Dica Mauro, sì. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Una curiosità la mia. Ieri sera, guardando Cagliari-Milan, verso la fine, Biondini, se non sbaglio, nello slancio e per recuperare un pallone è uscito nella zona del palo laterale, poi si è fermato probabilmente per la stanchezza appoggiandosi sulle ginocchia, e nell'inquadratura a campo lungo si è visto che poi l'assistente non lo faceva rientrare senza l'ok dell'arbitro. Volevo capire se c'è un qualcosa che lo giustifichi, oppure se è stato così un atto di da parte del quarto. Bisognerebbe chiederlo a quell'arbitro svedese, a Freifel, che ogni volta che c'è un italiano di mezzo e che bisogna sbrigare il traffico dentro e fuori dalla linea di fondo, ogni volta ci dà un'interpretazione diversa. Devo chiudere abbastanza rapidamente con un saluto e un grazie a Flavio Suari in redazione, a Peter Bescapè in regia, e dandovi l'appuntamento a domani. Buon pomeriggio.